C'è stata una scarsa partecipazione popolare al voto, l'affluenza si è fermata sotto il 50%, quindi questo vuol dire che la popolazione delle grandi città, i giovani, chi ha sempre contestato la Repubblica Islamica non è andato a votare, e c'è stato un fortissimo dispiegamento di forze di sicurezza, di forze paramilitari a Isfahan, a Teheran, nelle grandi città iraniane, e poi questo annuncio di una vittoria abbastanza annunciata e schiacciante, perché supera il 60% nell'affermazione di Ebrahim Raisi. Questo da una parte può significare una vittoria di una figura ultraconservatrice che in qualche maniera porterà l'Iran indietro al tempo di Ahmadinejad, perché appartiene alla stessa alla politica, sebbene Raisi sia un politico più che un Pasdaran, un militare, come invece quale invece erano le radici di Ahmadinejad. Però dall'altra si può pensare anche che lui agirà in continuità, perché a sostenerlo più di tutti è Ali Khamenei, la guida suprema, che è un po' il garante della Repubblica Islamica dopo la morte di Khomeini. Si apre adesso una fase abbastanza controversa di transizione, perché Rouhani continuerà ad essere il presidente fino ad agosto. Si spera, molti sperano, puntano sul fatto che Rouhani possa portare a casa l'accordo sul nucleare prima della fine della sua presidenza, però nel caso in cui fino ad agosto questo accordo non dovesse essere raggiunto, perché avviene vanno avanti colloqui, perché Biden e l'Iran stesso si dovessero irrigidire, evidentemente sarà il nuovo presidente a dover negoziare i termini dell'accordo. Vi ricordiamo, potrebbe prevedere la fine dell'embargo contro l'Iraq, che è uno dei punti centrali, perché l'economia iraniana è strangolata dalle sanzioni degli Stati Uniti ormai da anni, e questo rende molto difficile la vita quotidiana della popolazione. E proprio su questo si punterà molto il nuovo presidente, perché la questione delle politiche sociali, la questione dei diritti degli ultimi sono stati alcuni dei temi che sono stati trattati durante la campagna elettorale, che poi sono uno degli argomenti che viene utilizzato di più da quest'ala politica ultraconservatrice, quello appunto di affrontare la crisi economica, di affrontare la crisi che è venuta dopo il Covid, che in Iran ha colpito moltissimo, è uno dei paesi che è stato colpito di più in Medio Oriente dalla pandemia. Quindi evidentemente questi saranno tutti temi salienti importanti, e per evitare che ci siano nuove proteste. Ricordiamo che l'Iran è stato toccato da imponenti proteste di massa nel 2018 e nel 2019. Quali elementi hanno prodotto questo risultato elettorale? E dall'altro, appunto, lo hai già evocato tu, l'accordo sul nucleare con gli Stati Uniti, che atteggiamento da parte della Casa Bianca dobbiamo aspettarci? Prima di tutto c'è stato un intervento come al solito molto forte da parte del Consiglio dei Guardiani, che è arrivato come una scure per tagliare i candidati scomodi, quindi è evidente che si è arrivati al voto, la campagna elettorale già senza alcun candidato scomodo. C'è stata una campagna di discriminazione, di critica nei confronti dei riformisti moderati senza precedenti, in particolare contro Javad Zarif, che è il capo negoziatore per il nucleare, che ha veramente segnato la sua carriera politica, perché lui è stata ripresa una intervista che ha dato Javad Zarif, nella quale criticava l'operato dell'altro uomo forte che è stato ucciso da un drone degli Stati Uniti nel 2020, Qassem Soleimani, e quindi da questo poi ne è derivato un discredito più generale che ha toccato i politici riformisti. L'altra questione, che poi molti dei candidati alle presidenziali si sono ritirati alla vigilia del voto, non c'era quindi un candidato forte che potesse fronteggiare la leadership di Raisi, che ricordiamo aveva già partecipato alle elezioni del 2017 ed era arrivato secondo dopo Rouhani, il presidente che è ancora in carica. E più in generale queste elezioni ci possono portare a fare un bilancio della presidenza di Hassan Rouhani, che è stato al potere dal 2013 ad oggi, quindi 8 anni, 2 mandati, e ha fatto molto meno rispetto a quello che si aspettavano tutti. Ha agito in continuità rispetto al passato e fondamentalmente non ha portato quella riforma fondamentale che era chiesta a gran voce anche dalla parte moderata e tecnocrate, cioè quella di arrivare finalmente ad avere una distensione con la comunità internazionale, e quindi la fine delle sanzioni, e quindi una posizione politica estera dell'Iran più equilibrata. Infatti ricordiamo che un altro elemento che ha caratterizzato questi anni è stato un forte sentimento anti-iraniano che si è diffuso in tanti paesi. Pensiamo all'Iraq e alle proteste che ci sono state nelle scorse settimane, di nuovo, che ancora una volta erano proteste contro l'Iran e contro la presenza iraniana in Iraq. E poi più in generale non ha fatto molto per mitigare la questione della mancanza di rispetto dei diritti umani. Mousavi e Karroubi, che sono i due leader riformisti che sono stati messi in prigione nel 2011, sono ancora in prigione, e la stessa cosa si può dire per la questione che riguarda alcuni particolari figure che sono state arrestate negli ultimi tempi. Una di queste è Nazanin Ratcliffe, che è questa giornalista o comunque una cittadina britannico-iraniana che è stata di nuovo condannata ad 1 anno, e quindi evidentemente le questioni dei diritti umani non sono state toccate fatte a sufficienza durante la presidenza Rouhani. Per quanto riguarda l'accordo sul nucleare, è evidente che adesso si apre una nuova pagina e le speranze sono abbastanza difficili da concretizzarsi. Rouhani prima del voto ha detto che addirittura l'Iran è arrivato a superare il 60% di arricchimento dell'uranio, quindi questo significa un avanzamento rilevante dell'arricchimento ben sopra il 5% stabilito dall'accordo di Vienna. È evidente che quindi adesso i colloqui sono in salita, perché avere un presidente ultraconservatore come Raisi significherà dover fare nuovi colloqui, nuove concessioni per arrivare ad un'intesa che, ricordiamo, era stata strappata da Donald Trump unilateralmente nel 2018.